TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Mentre la riforma della giustizia divide la politica, all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Trieste i problemi citati come più urgenti continuano ad essere la grave carenza di personale e di finanziamenti. All'indomani del vertice di maggioranza sul piano oncologico, il PD chiede un confronto urgente in terza commissione sui criteri che hanno ispirato la revisione complessiva della rete ospedaliera. A San Vito al Tagliamento l'inaugurazione del polo vitivinicolo del Triveneto sarà il più grande sistema coordinato di consorzi del paese, si dichiara al servizio della qualità e della tracciabilità. Celebrazione del giorno della memoria a Visco, fu un campo di concentramento fascista per decine di migliaia di prigionieri jugoslavi, un lager attivo dal 20 febbraio all'8 settembre del 43. Lunghi applausi al Verdi di Trieste per Beatrice Venezzi, contestata neo direttore musicale della Fenice, era sul podio per dirigere Ascesa e caduta della città di Mahogonni di Kurt Weill. Oggi la conferenza stampa sul carnevale di Muggia, il comune conferma la novità dell'ingresso a pagamento, mentre la petizione che chiede di ripristinare lo status quo ha raggiunto le 1500 firme. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Francesca Terranova. Mentre si accende il dibattito sulla riforma della giustizia in vista del referendum di marzo, oggi nell'aula magna dell'Università di Trieste si è inaugurato il nuovo anno giudiziario. La riforma costituzionale volta a separare le carriere di giudici e pubblici ministeri e il referendum di marzo non potevano restare estranei all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Friuli Venezia Giulia. Tema solo lambito dalla relazione della Presidente della Corte d'Appello, Maria Caterina Chiulli. Ogni governo propone la sua riforma della giustizia come un bisogno identitario, ha affermato, sottolineando che i problemi considerati prioritari da chi quotidianamente vive le aule di giustizia sono altri. La giustizia, prima ancora di riforme, ha bisogno di finanziamenti e risorse, ha affermato. Nonostante un programma di assunzione di magistrati senza precedenti, le carenze sia di magistrati che soprattutto di personale amministrativo sono drammatiche. Le assunzioni, cioè, non riescono a far fronte all'esodo soprattutto di personale amministrativo. Qualche dato: alla Corte d'Appello di Trieste mancano 45 dipendenti su 72, fra i magistrati la carenza è del 17% in corte d'appello, del 19% nei tribunali. I bandi di concorso sono tardivi rispetto all'uscita del personale. Si parla di impiego dell'intelligenza artificiale, specie per la giustizia predittiva, ma ci sono ancora difficoltà col processo telematico, sia civile che penale, partito quasi 30 anni fa. Con un commento più incisivo nel merito della riforma è intervenuta la rappresentante del Consiglio Superiore della Magistratura, Maria Francesca Abenavoli. Il previsto sorteggio dei membri dei futuri CSM è incompatibile con la natura di organo costituzionale e antidemocratico, un sistema affidato alla sorte anziché all'elettività. Fra i politici presenti il ministro per i rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, che, sollecitato dalla stampa prima dell'inizio della cerimonia, ha difeso la riforma negando ogni intenzione e anche ogni effetto di riduzione dell'indipendenza della magistratura. Fra i presenti anche il presidente della regione Fedriga. Nessun accenno nella relazione del procuratore generale Carlo Maria Zampi, in considerazione, ha detto, del ruolo istituzionale ricoperto, il quale ha invece sottolineato l'impatto anche sulla percezione comune di reati commessi da stranieri e da minori e dai reati di genere. Antonio Cajazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora in primo piano il piano oncologico regionale, dopo il vertice di maggioranza che ieri ha fatto emergere elementi di disaccordo, soprattutto perché oggi sono arrivate le reazioni dei partiti dell'opposizione. Un incontro costruttivo, la maggioranza è coesa, aveva detto appena ieri sera Marco Dreosto, segretario della Lega in Friuli Venezia Giulia, all'esito del vertice che sembra avere ricucito, almeno per ora, lo strappo leghista sul piano oncologico regionale presentato dall'assessore alla salute Riccardo Riccardi. Ma le ruggini all'interno del centrodestra sui temi della sanità sembrano ormai una costante. L'anno scorso era stato Fratelli d'Italia a mandare in forte fibrillazione la maggioranza, l'amici l'aveva accesa il ministro per i rapporti col Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani, che in un'intervista al Gazzettino aveva criticato la gestione dell'ospedale Santa Maria degli Angeli con gli assessori di Lega e Forza Italia che avevano rimesso le deleghe. Poi, anche in quell'occasione, vertice chiarificatore e crisi rientrata. Eppure che la ferita potesse riaprirsi c'era da aspettarselo. Il documento con cui la Lega ora critica il piano oncologico regionale era in preparazione da molti mesi, dicono fonti interne al partito. All'attacco le opposizioni. Ancora ieri mattina era stata Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, a parlare di modello centralista che aumenta le disuguaglianze tra chi vive vicino ai grandi centri e chi abita nelle zone periferiche. C'è un rischio concreto che negli ospedali SPOC si verifichi un progressivo allontanamento di professionisti e uno svuotamento di funzioni essenziali, le ha fatto eco la segretaria di Civica FVG Simona Liguori, citando in particolare il caso di Latisana, mentre i consiglieri del PD in terza commissione salute del Consiglio regionale chiedono che con urgenza l'assessore alla salute e il presidente della regione riferiscano sulla revisione complessiva della rete ospedaliera regionale, esplicitando con chiarezza metodo, indicatori organizzativi e clinici e criteri decisionali. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli, Venezia Giulia. A San Vito al Tagliamento è in corso l'inaugurazione del polo vitivinicolo del Triveneto, che diventa così il più grande sistema coordinato di consorzi e organismi di controllo del paese, un modello che dichiara di essere al servizio di qualità, tracciabilità e competitività del vino italiano, con dati e governance condivisi su 3 regioni. Il ministro Lollobrigida interverrà con un videomessaggio. Sentiamo Francesco Li Antonio, Triveneta Certificazioni. Che cos'è il polo Triveneto? Triveneta Certificazione nasce da un bel percorso che dura ormai da oltre 15 anni. È un percorso formativo che parte dall'istituzione della DOC Pino Grigio delle Venezie, che poi si è finalmente costituito in consorzio di tutela DOC Pino Grigio delle Venezie. Ed ecco che serviva un ente di certificazione che doveva certificare, garantire e dare autenticità a un prodotto che vive questi territori da oltre un millennio. Serviva una certificazione di qualità. Ed ecco che nasce Triveneta Certificazioni, per volontà di tre organismi, Valoritalia, Sicure e Cevipur. Un percorso virtuoso che ha fatto sì, negli anni, si sono aggregati altri attori della filiera, tra cui tutti i consorzi di tutela, il consorzio del Prosecco, del Pino Grigio, tutti i consorzi del Friuli. Oggi questo polo, cosiddetto tra virgolette, altro non è che un tavolo, un punto di confronto, un punto di coesione, un punto di dialogo per affrontare insieme tutte le tematiche inerenti al comparto vitivinicolo di quest'area, che ha una ricaduta importante anche a livello nazionale. Per i produttori questo che cosa comporta? Per i produttori comporta maggior serietà, maggior chiarezza, ancora più confronto, ancora più dinamismo, ancora più essere lungimirante e affrontare tutte le problematiche e tutte le sfide che il settore oggi ci pone davanti. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Dolina l'amministrazione comunale prova a combattere l'astensionismo lasciando decidere i cittadini. Ieri sera al teatro comunale Prescirem di Bagnoli della Rosandra il comune ha proclamato i progetti vincitori della prima edizione del bilancio partecipativo. Il percorso è iniziato a giugno quando i cittadini hanno presentato 37 progetti e dopo l'analisi dei tecnici comunali 20 progetti sono stati ammessi al voto dei cittadini stessi. In 300 hanno espresso online la propria preferenza e 9 sono i progetti vincitori con un budget complessivo di 85.000 euro. Si tratta di piccoli interventi diffusi in tutte le frazioni di San Dorligo, percorsi pedonali sicuri, bacheche informative, panchine, fontanelle pubbliche, altalene, tavoli da ping pong e cestini per le direzioni dei cani. Questo bilancio partecipativo è dunque un esperimento unico in Friuli Venezia Giulia, ma che potrebbe diventare un modello anche per altri piccoli comuni. Il sindaco Coretti ha annunciato che ci sarà un altro bilancio partecipativo a giugno. Oggi è il giorno della memoria a Visco, dove sono iniziate alle 9.45 le celebrazioni in quello che fu un campo di concentramento fascista per decine di migliaia di prigionieri jugoslavi. Il lager fu attivo dal 20 febbraio all'8 settembre del 1943. Ampi, Udine e Comune hanno organizzato un corteo e la deposizione di corone per commemorare le vittime. Al dolente ricordo degli internati civili dell'ex Jugoslavia che vissero e morirono nel campo di concentramento di Visco dal febbraio a settembre del 1943. Una targa al centro del complesso militare di Borgo Piave ricorda la sofferenza di circa 3.200 persone, tra cui anche bambini sloveni e croati deportati dalle zone occupate dall'Italia nell'aprile del 1941 e dagli altri campi fascisti, soprattutto dal sovraffollato Arbe in Croazia. Di tutti i campi per internati, Visco fu quello col tasso di mortalità più basso, qui vi morirono 23 persone. In occasione del giorno della memoria, il Comune ha voluto omaggiare il ricordo di tutte le vittime dello sterminio avvenuto durante il secondo conflitto mondiale. Dobbiamo riflettere sul passato con uno sguardo al presente e la speranza per il futuro. Le parole della sindaca Elena Cecotti. Con un po' di rammarico dobbiamo proprio dircelo, la storia ci ha insegnato solo le cose peggiori, o meglio, non abbiamo imparato se non le cose peggiori. Quindi lo scopo di questa giornata, il compito delle amministrazioni comunali è proprio cercare di portare avanti questo insegnamento, questa celebrazione, in modo da fornire sempre un momento di riflessione e uno sguardo di speranza. Al Museo del Confine, a due passi dal campo, si è tenuto anche un convegno sul soccorso sanitario nelle guerre di ieri e oggi. A cura dell'AMPI e in collaborazione con Emergency. Qui sono state allestite due mostre. La prima raccoglie i disegni e le testimonianze dei bambini dai campi di concentramento del confine orientale. L'altra invece racconta le guerre contemporanee in cui il 90% delle vittime sono civili e dove ogni tre, una è bambino, specifica una didascalia delle foto dei presidi sanitari di Emergency a Gaza, in Ucraina, nel Sudan e in Afghanistan. Visco, Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tempo, il cielo è sereno su pianura e costa, da poco nuvoloso a variabile in montagna. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 10 gradi e mezzo, Gorizia e Udine 10, Pordenone 9 e mezzo, Tolmezzo e Forni di Sopra 4, Piancavallo 1 grado e mezzo, Tarvisio 5 decimi di grado, Sappada meno 4, Monte Zoncolan meno 1, Monte Lussari meno 2 e mezzo, grado 10, Lignano 9. Le previsioni oggi su pianure e costa: il cielo è da poco nuvoloso a sereno, sulla zona montana variabile ma con nuvolosità più consistente dalle ore centrali. Nel tarvisiano saranno possibili nubi basse, soprattutto in serata. Soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale. Scritta quasi 100 anni fa, ma sorprendentemente attuale nel racconto di una società dominata dal denaro e dal consumo, Ascesa e caduta della città di Ma Gonni ha entusiasmato ieri sera il pubblico del Teatro Verdi di Trieste. L'opera di Kurt Weill, su libretto di Bertolt Brecht, è stata accolta da lunghi applausi, così come la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, al centro delle polemiche per la sua recente nomina a direttrice musicale stabile del teatro La Fenice di Venezia. Un cupo cabaret anni 30 dove comanda la legge del più forte, e il più forte è chi ha più denaro da spendere. Questa è l'ambientazione scelta da Henning Brockhaus per L'ascesa e la caduta della città di Ma Gonni, in scena al Teatro Verdi di Trieste. Il testo di Bertolt Brecht racconta di questa città inventata da tre malviventi di mezza tacca per svuotare le tasche dei cercatori d'oro, dove un uomo finisce sulla sedia elettrica per non aver pagato 3 bottiglie di whisky. La musica di Kurt Weill disegna una società aspra e cattiva, con ritmi di danza che non sono mai allegri e con citazioni sonore che vanno da Bach al jazz. Beatrice Venezzi dirige questa massa sonora con precisione, bene assecondata da un'orchestra che non sbaglia niente, con citazione di merito per la sezione ottoni, le trombe e i tromboni in particolare, chiamata dal compositore ad un ruolo di primo piano, a cominciare dal pezzo più famoso, quell'Alabama Song, poi passata anche nel repertorio di gente come Jim Morrison e David Bowie. Tra le voci spiccano quella di Jimmy, il protagonista impersonato da Santiago Martinez, quella di Jenny, la donna da lui amata ma che si guarda bene dall'aiutarlo, che era Maria Belen Rivarola, e quella di Alissa Kolosova nel ruolo di Begbie, a capo dei cattivi. Il pubblico sulle prime era un po' straniato, come del resto voleva Brecht, ma si è scaldato progressivamente e alla fine ci sono stati consensi per tutti in una serata perfettamente riuscita. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Fra 15 giorni sarà la domenica di Carnevale, continuano le polemiche a Muggia per l'ingresso a pagamento deciso dal comune, 10 euro per gli spettacoli serali. Si è da poco conclusa al Museo Carà la conferenza stampa di presentazione degli eventi che animeranno la città dal 16 febbraio. Vediamo. 6 giorni di eventi mascherati che culmineranno nella classica grande sfilata di domenica 15 febbraio. Muggia si appresta a vivere la 72esima edizione del suo carnevale, presentato ufficialmente al museo Ugo Carà, nel tentativo di mettere in secondo piano il tema più dibattuto in queste ultime settimane: l'introduzione per i non residenti di un QR code dal costo di 10 euro per l'accesso al centro storico nelle ore serali dei giorni della festa. Provvedimento che il Comune ha giustificato con ragioni legate alla sicurezza e che già lo scorso anno era stato sollecitato dal Comitato per l'Ordine Pubblico, ma che, come era prevedibile, ha suscitato ampie polemiche. Sul sito change.org due petizioni contro il ticket hanno superato le 1500 firme, mentre il Partito Democratico di Trieste, in una nota, ha scritto che la gestione dell'ordine pubblico e dei flussi di persone è un compito ordinario delle istituzioni, non un'emergenza tale da giustificare la trasformazione di una città in uno spazio a pagamento. Con questa ordinanza, continua la nota, si finisce per colpire indiscriminatamente chiunque non sia residente, anche chi non ha alcun interesse a partecipare al carnevale. Il sindaco Paolo Polidori. Aumentare questa sicurezza comporterà una spesa maggiore di quelle che sono le entrate per quanto riguarda gli ingressi. Ci sono tantissime agevolazioni, non solo per le famiglie, ma parliamo anche per chi deve venire a visitare un parente, per chi lavora. Passando alla festa vera e propria, che quest'anno avrà come madrina Gilda Macor, una delle novità più importanti è la collaborazione con Capodistria, dove la sfilata in maschera è prevista sabato 14 per promuovere i rispettivi carnevali. Dario Grison, presidente della compagnia del Carnevale di Muggia. I carri sono a buon punto, le sfilate, la regia delle sfilate delle singole compagnie è già predisposta. Abbiamo anche quest'anno esteso, diciamo, la collaborazione oltre al comune di Trieste anche al comune di Capodistria e speriamo che la gente venga numerosa a vedere la sfilata. Muggia, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Sold out il teatro Giovanni da Udine per lo spettacolo di questa sera con il comico milanese Luca Ravenna, il suo secondo appuntamento in regione dopo quello di Trieste del 26 gennaio per il suo nuovo tour Flamingo, con decine di tappe in tutta Italia fino ad aprile. Domani sulla terza rete a diffusione nazionale torna la nostra rubrica Est-Ovest. Vediamo con quali argomenti. I camionisti dei Balcani occidentali protestano contro le nuove regole che gli impediscono di lavorare nello spazio Schengen. In Romania, per l'alta frequenza di ictus tra la popolazione, il sistema sanitario ha sviluppato unità specifiche di pronto intervento. La Bulgaria deve affrontare una nuova crisi politica con le dimissioni del presidente Radev, che punta a diventare premier. Fantasy, film della regista slovena Kukla, racconta la crescita emotiva in una società moderna ma patriarcale di tre giovani amiche. A 30 anni dalla fine dell'assedio di Sarajevo, una mostra ricorda la solidarietà della Puglia con le popolazioni bosniache. Tutto questo è Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. E sempre domani, ma su queste frequenze, dopo il primo giornale radio, va in onda Vita nei Campi, la nostra rubrica radiofonica dedicata all'agricoltura. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai, domani racconta il momento del settore ittico con i pescatori di Marano Lagunare. A seguire i grans, ovvero i cereali oggetto di tributi che disegnavano la geopolitica del Friuli antico. Ancora sul grano da pane, ecco i migliori fertilizzanti ammessi in agricoltura biologica. E ancora chinino e malaria, commercio in mano a inglesi e gesuiti, sapidità, dolcezza, aromaticità, gli effetti sul vino dei composti rilasciati dai lieviti. La neve ammanta di nuovo boschi e montagne, ma nasconde fragili equilibri che vanno conosciuti e rispettati. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. Questa edizione del giornale radio termina qui. Grazie a Roberto Cavallari per aver curato la parte tecnica e a Laura Sarasini per aver lavorato in redazione. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.